24 di Giovanni Minoli. La ripresa. Tutti i giorni Renzi ci bombarda con numeri, numeretti. Il più delle volte sono fasulli, il più delle volte sono sovraccaricati di significati. Noi guardiamo ai fatti. I fatti sono che il paese è ancora in crisi. Sto vivendo una crisi c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. L'Italia ha le condizioni per ripartire in modo straordinario, è già ripartita. Noi dobbiamo incoraggiare questa ripartenza. C'è un po' di ripresa economica oggi, la sente o no? Non solo come ex presidente del Consiglio, come imprenditore. Che fa? Volevo sapere se sentivo la ripresa. No, non la sento. No, non c'è. Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, buongiorno. La sua organizzazione invece ha certificato che la ripresa c'è. A cosa è dovuta? Ma guardi, dopo 7 anni di una crisi molto dura, difficile, a volte anche drammatica, finalmente non ci sono più i segni meno, possiamo ci dire. Ci sono i segni più. Ci sono i segni più, però sono ancora segni più leggeri, molto timidi, molto fragili. Ma i dati di agosto, per esempio, sono ancora migliori di quelli precedenti? Ma guardi, i dati di agosto sono... No, non sono migliori rispetto a luglio, però sono migliori rispetto a quello dell'anno precedente, cioè verificano una crescita del 2% rispetto all'anno precedente. Quindi si consolida la ripresa. Posso dire così, se posso. Sì, certo. C'è un risveglio, ecco, dei consumi. Certo, uso la parola risveglio, nel suo significato più autentico, e che mi fa dire che la ripresa c'è, però la prudenza è d'obbligo. E però si consolida un po', si consolida, insomma, 2%. Sì, no, attenzione, è il 2% rispetto all'anno prima, che era un anno scorso, brutto. Attenzione, ma volevo dire che la prudenza deve essere d'obbligo, perché? Perché dopo molti anni di crisi che hanno indebolito il sistema produttivo, ridotto drasticamente la ricchezza degli italiani, insomma, tornare a crescere è difficile. Però allora, è importante. Ecco, al Codaco. Ma però il governo deve vincere. Ma certo che il deve. Governo deve vincere questa scommessa, deve vincere questa scommessa di trasformare questa ripresa, ancora certamente fragile e timida, in una vera e propria crescita. Insomma, da congiunturale a strutturale. Ecco, bravissimo, diciamo così. Bravissimo, certo, perché il problema reale di questo paese è la debolezza strutturale della domanda interna. Ecco, al Codaco, però non sono d'accordo con lei. Senta qua. Meno ottimista il Codacons. Secondo l'Associazione dei Consumatori, i dati certificati dall'Associazione dei Commercianti sono un segnale importante, ma è ancora presto per cantare vittoria. A spingere i consumi sarebbero stati infatti soprattutto i saldi. Insomma, bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, a seconda di come si guarda. No, esatto, però anch'io dico che è ancora presto per cantare vittoria. Ecco perché io mi permetto di dire che è il governo che deve vincere questa scommessa, come ricordavo prima, di trasformare questa ripresa in una vera crescita diffusa, robusta e duratura. E come? Abbassando le tasse su famiglie e imprese. Imprese, certo. Ma cosa sta cambiando intanto un po' negli stili di consumo degli italiani? Ma guardi, non c'è dubbio che qualcosa sta cambiando, certamente gli stili e i consumi italiani sono cambiati anche per effetto di questa crisi, non c'è dubbio. Comunque, proprio noi dobbiamo impegnarci e fare di tutto perché ci sia veramente un sostanziale e fondamentale cambiamento di rotta. Ma quali sono i settori che vanno più forte, che insomma sono più forti nella ripresa? Ma guardi, io gliela dico così, in questi mesi certamente c'è stata una stabilizzazione delle principali voci di consumo delle famiglie italiane, alimentari, abbigliamento, beni per la casa, però qui bisogna fare una distinzione. Se guardiamo alle variazioni mese per mese, quelle congiunte, si osserva un andamento con scarse variazioni. Sì. Se invece guardiamo alle variazioni dello scorso anno, si vedono i numeri più grossi. Tendenziale, certo la ripresa si vede nettamente un po' più accentuata. E ecco, i settori invece che restano più indietro quali sono? Ma guardi, i settori che restano più indietro, anche qui è sempre difficile dire come stanno in maniera perfetta le cose, certo, però sono un po' quelli tradizionali, sono quelli dell'abbigliamento, sono quelli alimentari, però ripeto, è difficile proprio focalizzare in maniera perfetta. Senta, un'ultimissima cosa, Presidente Sangalli, poi la lascio. Avete delle richieste specifiche da fare al governo Renzi? Ma guardi, due per noi restano le priorità, ecco, glielo dico così, due restano per noi le priorità: perdere al più presto il triste primato di una pressione fiscale che è tra le più alte al mondo, certo, e tagliare la spesa pubblica improduttiva con coraggio e da subito, per trovare quelle risorse necessarie per una riduzione generalizzata delle aliquote. E si aspetta qualcosa da questa legge di stabilità? Ma io mi aspetto veramente qualcosa da questa legge di stabilità, e mi aspetto qualcosa se vogliamo veramente trasformare questa ripresa statistica in una crescita reale ed effettiva. 800240024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Carlo ci scrive: Sangalli parla bene, ma Confcommercio in riunioni locali dice delle cose diverse. Ma adesso andiamo dentro la notizia. Mix 24, dentro la notizia. Beh, la nostra domanda, l'avete capito, di oggi è: la ripresa c'è veramente? Cioè, sono veramente ripartiti i consumi degli italiani? Gli italiani davvero, l'Italia davvero, come dice Renzi, può essere davanti alla Germania? L'Italia lievemente ma progressivamente migliora. A dirlo è il Fondo Monetario Internazionale. La crescita è più forte del previsto, si legge nel rapporto, e in conferenza stampa Thomas Oebling del Dipartimento Economico dell'FMI sottolinea: l'Italia può fare di più ed è di sicuro possibile che possa fare come o meglio della Germania nel medio termine. Insomma, Pietrangeli, gufi questa volta hanno torto. Come te la cavi tu con questa notizia? Se ci si fa forti del Fondo Monetario Internazionale, anche vabbè, sono numeri. Io, nel buon nome della solitudine dei numeri gufi, vi faccio una proposta. Faccio un numero gufo, non faccio è male. Una proposta a te, Giovanni, a te, Mario. Andiamo nel paesello mio e di Gloria. Vi portiamo lì, dove una porta sì e una porta no a salire c'è un disoccupato, e una porta sì e una porta no a scendere c'è un disoccupato. E qui siamo nel profondo sud, siamo in Sicilia, siamo nel terribile mezzogiorno. Torneremo nel mezzogiorno. Però vi vorrei dire che anche al nord, nel profondo nord, le cose non vanno bene. In un certo senso è come se ci fosse stata una guerra, dove oltre ai caduti e ai feriti ci sono i combattenti e reduci, cioè la generazione dei cinquantenni si ritrova in stragrande maggioranza tra i disoccupati. Io ho ricevuto una mail di un amico che mi ha turbato. Lui è molto malato e poi a un certo punto mi dice questo: detto tutto ciò, devo però confidarti, senza certo disprezzare la vita, che ora come ora sono quasi tentato di sperare in una rapida evoluzione della malattia. Il fatto è, caro amico, che sono scoraggiato e stanco di vivere e soffocato da problemi di ogni genere, tanto che ormai la morte è l'unica via di fuga rispetto al mio stato di disoccupato, che perdura ormai da 2 anni e mezzo senza nessuna possibilità di soluzione. No. Dopo aver bussato a tutte le porte, parliamo di una persona laureata, di grande qualità professionale, che, come la stragrande maggioranza dei cinquantenni, si ritrova nella doppia condizione: o disoccupato o precario. Va bene, e questa... quindi i numeri non è che sono gufi o cupi, sono in uno stato di allerta da dopoguerra. Questo è vero, ma in ogni caso, rispetto a questo dopoguerra, qualche segnale positivo c'è, e noi parliamo anche dei segnali positivi, perché di quelli negativi ne parliamo sempre. Abbiamo sentito, Sangalli, Mario, il clima sembra un po' favorevole, davvero, sì. È davvero così? Ma l'indice del clima di fiducia, insomma, che è una misurazione abbastanza attendibile nel lungo periodo, dice che è salito a 112,7 della 109, quindi quindi diciamo questo indice funziona, anche quello delle imprese, non solo quello delle famiglie, è aumentato, permangono ai livelli massimi da 2 anni, quindi anche questo è un altro elemento spesa, di stabilità. Sulla spesa degli italiani, che sulla cosa spesa degli italiani molte cose le ha già dette Sangalli sulla tipologia, certo. Quindi non mi soffermo su questo, dico solo che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,4% rispetto al 2014 e la spesa è aumentata dello 0,8%, quindi la ripresa c'è, sulla sua stabilità diciamo e forza è tutto ancora da vedere ovviamente, però insomma quello che sono raccontava dati. Pietrangelo è vero, è una situazione drammatica, però qualche segnale c'è, diamo anche insomma, questo ce ne sono, e c'è stato infatti anche un altro momento nella storia del paese in cui l'economia da una situazione di stagnazione, di crisi tremenda è ripartita, è stato il periodo del primo centro-sinistra, il motore di quella crescita, sì. è stato Fanfani, il capo dell'altro giglio magico che ha guidato l'Italia. Ecco alcuni progetti di case che col piano Fanfani diventeranno realtà. Per il Natale del 50 Fanfani può già annunziare che non meno di 43.000 famiglie avranno un appartamento. 21 ottobre 1950 entra in vigore un'altra riforma decisiva, la legge agraria. 24.000 ettari suddivisi fra 5.000 famiglie. La nazionalizzazione dell'energia elettrica fu un po' la riforma più emblematica del primo periodo del centro-sinistra, il periodo appunto fanfaniano, il periodo più intensamente riformatore. L'elettricità vi procurerà benessere e felicità. Fanfani, presidente del Consiglio, chiese alla RAI di organizzare una tribuna politica televisiva dove i partiti di opposizione avessero le stesse possibilità di esprimersi alla stessa stregua dei partiti di opposizione, tutti sullo stesso piano, tutti. Nemmeno la BBC faceva questo. Il governo ha deciso di distribuire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle elementari. Lo statalismo di cui tanto si ciancia in Italia non è una morfina per addormentare gli spiriti liberi, ma uno strumento e una leva, come tante altre. Ha operato quella stagione delle riforme che nessun altro governo, sua design riformista, è mai riuscito più a pensare nell'Italia successiva. Ecco, professor Giuseppe De Rita, presidente del Censis, editorialista del Corriere della Sera. Lei è anche un testimone. Ecco, c'è qualche analogia tra quel giglio magico e quello di oggi? L'unica analogia è comunicativa. C'è una forte sovrapproduzione di comunicazione. Sì. Era una tendenza molto fanfaniana a fare e a far sapere. E con vari fuochi d'attenzione, una volta la casa, una volta la televisione. Ma cose fatte però. Per esempio la casa era molto, molto più un annuncio, che così come i soldi per i coltivatori diretti, però erano processi già in atto. La cosa che è diversa è che le attese della gente sono diverse. E cioè? Che cosa era per un italiano del 1950 la casa? Era il sogno fondamentale, era un bisogno primordiale, era l'idea di poter uscire dalla casa dei genitori e andarsene altrove. Ecco, ma quindi non esistono. Cos'era l'intervento in agricoltura? Era diventare da contadino, bifolco, mezzadro, bracciante, certo. Diventare coltivatore, certo. Diretto, diventare piccolo imprenditore. Quindi le analogie sono solo quelle, diciamo. Sì, il punto di vista invece strutturale è che allora c'era una fame di diventare qualcosa di meglio nella casa, come nello status sociale, nella professione. Oggi c'è sostanzialmente una difesa di quello che c'è, un non interesse ad avere altro e tutto sommato un certo scetticismo verso il vero valore per la ripresa. I consumi non ripartono, ma aumentano i risparmi. Perché? Perché la gente in qualche modo ha paura di che cosa può succedere, non ha paura di qualche cosa. E allora a quel punto mettono da parte, senza sapere il perché mettono da parte, ma mettono da parte in attesa degli eventi. E che cosa si può fare per innescare un processo contrario? È un problema di offerta politica, di offerta anche aziendale, cioè il sistema che cosa offre? Se continua a offrire telefonini ed auto, non è che la gente può pensare che continua a desiderare telefonini ed auto. Però i dati ci dicono che la fiducia dei consumatori e delle imprese è cresciuta negli ultimi 2 anni. È un dato consolidato oppure un dato che lei vede ballerino a rischio? No, non è ballerino, è seduto, direi io. Cioè, sta lì fermo a vedere, nel senso che da una parte c'è una fine della tragedia che sta andando tutto molto peggio. Sì. Quindi, siccome non sta andando tutto peggio, sto qui e guardo un po'. Quindi un po' di psicologia positiva sta entrando. Sì, sì, però il problema è il rilancio, la ripresa ha bisogno non di psicologia positiva, ma iperpositiva, cioè della gente che non soltanto dice forse va meglio, ma si mette di buzzo buono e fa qualcosa. E dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, che consiglio darebbe al governo? Devo dire che la cosa che mi piace di più in questo momento è questa nuova piccola imprenditoria giovanile di tipo digitale, dove gruppi di giovani fanno apps, fanno programmi, fanno siti, molto immateriale, che tutto sommato mi sembra in piccolo ricordare quella febbre del mettersi in proprio, del fare impresa, su cui è nata l'impresa italiana negli anni 70, l'impresa dei distretti industriali. Certo. Però è per ora un minoritario. E il seme, come dice qualcuno, è sempre laterale, non è mai dentro il solco. 800240024 numero verde, 349-238-6666 gli sms, tantissimi sms in realtà, un po' concordano con Pietrangelo, la ripresa non la sente nessuno, quasi da nessuna parte, sui territori non è arrivata. Leggo una per tutte. Chiara da Roma dice: faccio la volontaria, nel 2013 servivo 70 pasti al giorno, oggi ne servo quasi 200, gli italiani sono il 70%, la politica vaneggia. I numeri dicono che dicono che i vari istituti sono tutti manovrati, la realtà è un'altra, c'è poco lavoro e in più una concorrenza sleale di stranieri che abbassano i prezzi. Insomma, Mario, questa ripresa che tu dici che si sta consolidando, che fa? Sai, non è che lo dico io, lo dicono gli istituti di statistica e ricerca. Quelli che manipolano i dati, no? No, non manipolano niente quelli. Vai. C'è un problema di fiducia, questo è evidente ed è chiaro anche da quello che scrivono molti dei nostri ascoltatori, e questo è comprensibile. E ci sono anche dei rischi, perché non sappiamo quanto può consolidarsi questa ripresa. Pensate solo al rallentamento dell'economia cinese, che comunque ha un impatto globale, quindi colpirà anche noi, poco probabilmente la Cina, ma pensate al caso Volkswagen, col mercato dell'auto che stava e sta ancora trainando la produzione industriale sostanzialmente in moltissimi paesi d'Europa, Italia compresa. In Italia fa più 44% l'auto, non so se mi spiego. Quindi è chiaro che ci sono delle situazioni difficili, ma è altrettanto chiaro che comunque la ripresa c'è. Poi è l'1%, certo, perché certo, il paese, vabbè, insomma, questo è un paese dice, che non è che è mai Rita. Cresciuto a doppia cifra. No, ma come dice, beh sì, tanti anni fa, tanti anni fa, come dice Derita, però dice la gente sta a guardare, sì, forse sì. Se c'è anche una piccola ripresa la gente sta a guardare, cioè c'è molta incertezza. Franco ci scrive: sono un piccolo artigiano, vi garantisco che vedo intorno a me soltanto molta incertezza, però bisogna essere realisti e dare il quadro completo. C'è un settore abbastanza sorprendente che in questo clima invece mostra un'incredibile dinamicità ed è in crescita, in grande crescita, è quello della produzione della birra, in netta controtendenza con la crisi. 600 microbirrifici che si stanno sviluppando, stanno conquistando mercati anche sorprendenti. Leonardo Di Vincenzo, mastro birraio, produttore e titolare di Birra del Borgo, un marchio che è sbarcato anche a New York. Di Vincenzo, ma in pratica in Italia un sorso su due se lo beve il fisco, se ho capito bene? Sì, diciamo esattamente, ovviamente nel senso che in Italia c'è stato negli ultimi 4 anni un aumento, diciamo, abbastanza vigoroso delle accise, e le accise chiaramente sono le tasse legate all'alcol. Ecco, ma è vero che le tasse si pagano sulla quantità di birra prodotta e non sul venduto? Allora, in realtà i piccoli produttori, diciamo, vanno incontro ad un problema abbastanza grande, nel senso dove effettivamente loro pagano, diciamo, l'accisa su quello che viene prodotto, per cui viene pagata l'accisa anche sulla parte di birra che poi effettivamente non sarà mai confezionata. Quindi anche se non la vendete pagate le tasse? Esattamente, esattamente. Oltretutto poi c'è anche ma chi se l'ha inventata enorme. Questa cosa? È geniale. Ma questa chiaramente è stata, diciamo, è stata forse una legge che da un certo punto di vista ha complicato la situazione, cioè, in modo che i piccoli produttori pagassero di più, ma d'altro canto ha anche semplificato rispetto alla legge che gestisce i grandi produttori, che sicuramente ha un'implicazione burocratica molto più elevata. Senta, ma l'export della birra italiana negli ultimi 5 mesi è cresciuto del 27% e la birra artigianale mi sembra che viva un momento d'oro. Quanto esportate all'estero? Noi ad esempio attualmente, come nostra realtà, noi più o meno circa il 30% della nostra produzione va all'estero. Sicuramente la birra artigiana sta avendo proprio un grandissimo successo, soprattutto quella italiana, proprio per sia la grande creatività che anche proprio il fatto che comunque siamo riusciti a creare uno stile ed un gusto assolutamente nuovo. Ecco, ma voi avete conquistato mercati come Gran Bretagna e Irlanda, cioè grandi paesi bevitori di birra. Ma che cos'è che vi ha... qual è il vostro valore aggiunto? Perché la vostra birra è meglio della loro? Ma diciamo, più che meglio, in realtà sicuramente è riuscito a portare un qualcosa di nuovo, cioè il fatto ad esempio di utilizzare degli ingredienti inusuali, oppure di cercare di fondere quella che è la tradizione, diciamo, del mondo del vino con quella del mondo della birra. Cioè avete cambiato il gusto della birra in qualche modo? Esattamente, no? Esattamente. E cioè ad esempio uno stile che sta rendendo la birra italiana molto conosciuta al mondo, che molto spesso viene utilizzato il mosto di uva proprio come ingrediente, e quindi questo tende a dare un'acidità piuttosto spiccata, piuttosto piacevole, che ricorda molto anche quello che... cioè avvicina la birra al vino in qualche modo, esattamente, come gusto. Cioè, gli ricorda, esatto, come gusto la avvicina e la rende, diciamo, assolutamente unica. Senta, ma in Italia sta tornando la fiducia, i numeri lo stanno dicendo, quindi si beve anche di più, la gente è più allegra, beve più birra? Assolutamente, assolutamente. Diciamo che la birra artigiana sta avendo un bellissimo sviluppo, e nonostante, diciamo, il momento non sia proprio in assoluto dei più felici, però sta crescendo sia il numero dei produttori ed anche proprio il numero di produzione. Ecco, l'unico problema è che ad esempio la differenza che esiste tra l'Italia ed altri paesi europei, come ad esempio la Francia e l'Inghilterra, è che i piccoli produttori in queste nazioni sono aiutati, cioè nel senso loro pagano un'accisa ridotta e invece da noi sono massacrati, mi pare di capire. Esattamente. Senta, ma i consumatori del suo prodotto, della birra artigianale, chi sono? Giovani, anziani, chi sono? Beh, diciamo, la birra artigianale sta un pochino accomunando tutti, nel senso che sicuramente i più giovani, diciamo, stanno abbandonando forse o comunque stanno diminuendo il consumo, diciamo, di tutte quelle bevande alcoliche diverse, e si stanno avvicinando moltissimo alla birra artigianale. Anche giovani molto, molto verso la birra artigianale. Ecco, esatto. Un'ultima cosa, ma cosa dovrebbe fare secondo lei il governo per aiutare i piccoli produttori che hanno questo successo? Diminuire le accise, mi pare di capire. Diminuire le accise, magari renderle un pochino rispetto a quella che è l'intera capacità produttiva, diciamo, dello stesso produttore, e magari anche snellire un pochino la burocrazia di gestione delle accise, che è assolutamente impegnativa. Cioè, cosa vuol dire? Non poche volte succede, diciamo, che laddove ci siano delle differenze enormi, diciamo, cioè delle differenze, chiedo scusa, non enormi, cioè nel senso di piccola quantità, tra quello che effettivamente viene prodotto e quello che viene venduto, questo viene visto, diciamo, come se fosse effettivamente fatta una truffa, diciamo, anziché piuttosto invece semplicemente una perdita di lavorazione del prodotto stesso, che chiaramente non ha la stessa efficienza produttiva dei grandi impianti. Vabbè, un caso naturalmente interessante. 800 24 00 24, un po' di ottimismo. Numero verde 349-238-6666. Esistono appunto questi casi, Mario? Naturalmente il Sud in questo momento è invece abbastanza sganciato da questa dinamica, e l'abbiamo sentito, sì. Però ne parleremo, perché stiamo preparando una puntata solo su questo, ma cosa manca secondo te invece? Beh, mancando la fiducia, ancora ci vuole più fiducia da parte dei consumatori, e ovviamente, quindi? E c'è ancora una quota di risparmio molto alta rispetto alle potenzialità di spesa, cioè il risparmio degli italiani, delle famiglie è aumentato nel secondo trimestre del 2015 di 0,5 punti percentuali rispetto al 2014. Questo è un indicatore che la gente, come diceva Delitta, la gente risparmia, guarda, anche se guadagna poco, anche comunque risparmia, sta a guardare, e forse questa crisi in qualche modo ha anche cambiato la percezione del reale, la percezione del sistema dei valori a cui fare riferimento. Ecco, guarda cosa mi fa venire in mente questa condizione nuova. Sentiamo. La scena finale di un film che ha quasi 20 anni. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Beh, effimera. Sporting del 96. Beh, insomma, è una sintesi abbastanza interessante. Per chiudere, tu hai scritto un libro tutte le volte che ce l'abbiamo fatta. Ecco, che cosa dobbiamo imparare in due parole da quel libro? Una canzone, quindi immaginare, volare. Volare. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Mix 24. Tanti sms, tante telefonate, una per tutte. Andrea dalla Spezia. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie. Dica. La mia riflessione, sentendo parlare di ripresa, mi sente bene? Sì, sì, benissimo, dica. La mia riflessione è legata a uno slogan pubblicitario di qualche tempo fa, no? Muove la voglia di fare. Il nostro sistema è così com'è. E il nostro sistema così com'è non muove la voglia di fare, la fa un pochino annegare. Vabbè, c'è il problema della burocrazia, certo. È bravo, c'è la burocrazia, le faccio anche un esempio veloce, poi ce ne sarebbero tantissimi, ma mia moglie ha un piccolo negozio, ha fatto domanda per mettere un sistema di videosorveglianza per un finanziamento. E ce la fa? Il finanziamento non è arrivato, erano poche centinaia di euro, però è arrivata una cartella che dice che se c'è una videosorveglianza devi pagare il canone RAI. Cioè prima paga il canone RAI e poi gli mettono la telecamerina. Bravo, e non male. Se uno ha una macchina superiore a 1800 di cilindrata, la finanza ti ferma perché vuol sapere perché ce l'hai, se hai lo yacht. In pratica l'intraprendenza viene è un po' tutta pulita da parte della burocrazia. Va bene, adesso vedremo se con la legge Madia qualcosa cambierà, speriamo. Grazie. Il governo Renzi ha fatto qualcosa in positivo soprattutto per le grandi imprese. La canzone di Pietrangelo. Till I'm gathered safely in, and lift me like an olive branch, and be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, oh, dance me to the end of love, and let me see your beauty when the wind. Questa canzone è una danza che accompagna alla fine di un amore, oppure è un amore che porta alla danza di ogni fine. Insomma, è la ruota che gira l'eterno rincorrersi delle emozioni, degli umori, e dunque questi sono i Zurita a suonare, perché stamattina mi ha telefonato i Zurita? Zurita. ma ha telefonato Zorro. Quello con la spada. Non Zorro. Zorro. Zorro. No, quello è per uomini chic e femmine. Quelle sono le piritollate della Rai di regime, dell'Happy Regime. Dai, no. Su. Allora, ha telefonato Zorro, che è quello con la spada, la mascherina e la Z in testa. Ha chiamato per segnalare questa canzone e dedicarla a Romy Schneider con un messaggio. Mano nella mano, sempre, senza mai file. Izurita. Un po' gitana, questa musica. Ecco, gitana. Quest'anno, prima di cominciare la trasmissione, avevamo deciso che la prima bolla di Mario Secchi sarebbe stata una bolla cattiva. Sono passate due settimane e ho sentito delle cose dolcissime. Scomendo. Provocatore Minoli, vediamo la cattiveria tua, dove arriva adesso. Come sei provocatore. Vai. No, senti, io sono rimasto colpito. Io leggo sempre la nobile spalla di Repubblica. La spalla, per quelli che non lo sanno, è la colonna a destra di fianco, del giornale. La leggo sempre con grande interesse. Ci sono dei belli articoli colti. E oggi c'è un articolo sulla nuova sinistra che è molto interessante. Ora, a sinistra hanno Renzi, che mi pare abbia vinto le elezioni europee con una certa cosa. Sta governando. La cattiveria dove sta? E la cattiveria sta che dopo Zapatero, dopo Tsipras, eccetera, adesso la sinistra ha un nuovo idolo, Corbyn, il nuovo leader del Partito Laburista. Ora, ce l'hanno già il leader, si chiama Matteo Renzi, se ne devono fare una ragione. Ma quell'altro pezzetto di sinistra, come ha detto qui, ho Verdini, capito, ma... è ingenua. Ho capito, ma non possono presentare un intervento di Marianna Mazzuccato, l'economista italiana, che va nel think tank di Corbyn, dire che quelle sono le nuove idee. Ce l'hanno già il leader e Renzi, se ne facciano una ragione. Ti prego, Pietrangelo, prima del tuo salamino fai un applauso a Mario e così possiamo andare avanti, perché sennò ce l'hanno. No, lui non è d'accordo. Salamino, no. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Okay. È Natale. E voi vi aspettavate i salamini di Petrolini? Certo. No, oggi la sigla cambia. È Natale, già, perché... ma più che altro per la notizia. Intanto, perché Ignazio Marino, e lo dice Alta Società, la rubrica di Carlo Rossella, non mangerà il panettone. Quantomeno al circolo degli scacchi, no. Perché il sindaco lì è già stato depennato. Non mangerà il panettone neppure a Sant'Egidio, che è la potentissima parrocchia di Roma. Però lui, la rimettiamo quella musica? Ecco, però lui, questo benedetto panettone, dovrà comprarselo con i suoi soldi, perché ha detto che restituisce quelli che ha già speso, restituisce pure la carta di credito. Che non si sa perché, ma i magistrati vogliono capire come mai da 15.000 euro è saltata a 50.000 euro. Comunque, successo che non mangia il panettone, caro Giovanni, ma lo sai pure qual è la preoccupazione? Che tutti gli ambientalisti e gli animalisti si sono mobilitati perché la povera lupa capitolina già doveva allattare Romolo e Remo, si è ritrovata aggrappata alla mammella, pure Marino che l'ha disidratata, pure Matteo Orfini, che è uno dei suoi badanti, che è il presidente del PD, non ne può più. Insomma, è finita che Michele Anzaldi, che non è uno che passa, ma è il deputato che può dire quello che Matteo Renzi non potrà dire, dice: non possiamo entrare nel giubileo aperto da un funzionario di polizia, perché la pietra della Porta Santa viene rotta dal Papa e dal sindaco, e per la prima volta ci potrebbe essere un commissario, che so, direttamente Montalbano. Comunque, comincia l'autunno di Marino, ma è anche l'inverno di Renzi, che rischia di trasformarsi in un inferno, perché un 5 Stelle può andare al Campidoglio, ma colpo di scena, lascia trapelare lo stesso Matteo Renzi per tramite del Corriere della Sera con i suoi cronisti di fiducia, lascia trapelare un colpo di scena, e cioè quello di sottrarre Alfio Marchini alla leadership del centrodestra. E Marino cosa farà? Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Cacca. Ecco, Marino mangia. Bolla, bolla Mario, bolla. Vai. Oh, bella musica, tirala su. Per la gioia di Gloria questa, che stamattina proprio la voleva tutta questa musicona. Vai, adagirala, andiamo. Allora, vabbè, i Pixies, Where is my mind? E sì, dove stanno i soldi, Giovanni? Solitamente nel cavò, in banca. C'è una notizia molto grossa stamattina, perché Deutsche Bank, sapete tutti, uno dei grandi colossi della finanza mondiale, nonché la prima banca della Germania, ha accumulato nel trimestre perdite per 6,2 miliardi di euro e non pagherà i dividendi. Ora, puoi immaginare, dopo la botta di Volkswagen, pure questa. Ma sta Germania, anche lei comincia ad avere problemi. Sì, naturalmente c'è un vocabolo in nella lingua tedesca che è molto bello, io non lo so pronunciare benissimo, Schadenfreude credo che si dica, che è la gioia del maligno, cioè godere del guaio altrui. Non, secondo me sconsiglio di godere di questa cosa, perché se va male la Germania va male anche per noi. Dopo la chiusura del presidente della Confindustria Squinzi sulla possibilità di portare avanti le trattative coi sindacati sul rinnovo dei contratti di categoria, arriva la replica del segretario della CGIL Camusso, che scandisce: Squinzi è come un giocatore che lascia il campo perché il pallone non era quello con cui voleva giocare. Ecco, momento brutto nei rapporti sindacali, una piccola riflessione però la voglio fare. C'è stato un momento in cui la cogestione tra imprenditori e sindacati sembrava la via maestra per sviluppare con armonia produttività delle imprese e sviluppo della giustizia sociale crescente. Cioè, in pratica, condivisione del rischio dell'impresa con la flessibilità del salario, ma partecipazione agli utili delle imprese in caso di successo. La crisi economica ha reso le parti più radicali ed egoiste. L'urgenza oggi però è capire se possiamo rinunciare al lavoro di compromesso proprio della trattativa sindacale, se delegare al legislatore quello che le parti non riescono a concordare. Sarebbe uno scenario inedito, una sconfitta per tutti. Il futuro, credo, richiede di uscire dal Novecento difendendo il pieno protagonismo di lavoratori e imprese. Il 9 ottobre del 63, dal monte Toc, qui sul fianco sinistro della valle del Vajont, si stacca una frana di 260 milioni di metri cubi di roccia. Piomba nel lago, dietro la diga del Vajont, e solleva un'onda di solo 50 milioni di metri cubi d'acqua, che solo per metà passa dall'altra parte della diga, ma è più che sufficiente a spazzare via dalla faccia della terra cinque paesi: Longarone, Pirago, Rivalta, Codissago, Faè, 2000 i morti. Fango, silenzio, solitudine. E capire subito che tutto ciò è definitivo. Più niente da fare o da dire. Cinque paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra. E nessuno ha colpa. Nessuno poteva prevedere. È il racconto del Vajont nello straordinario monologo di Marco Paolini. Una tragedia annunciata, come tante, troppe, anche nell'Italia di oggi. Dopo più di 40 anni, le voci del Vajont, le verità inedite, le testimonianze censurate e nascoste di chi sapeva tutto. Un giallo a Mix 24, dopo il giornale radio. Mix 24. Proviamo col canzoniere questa volta, tutta la settimana che ce lo tiriamo dietro. Non potete voi, per via indiretta, trargli di bocca la causa di quello stentato vaneggiare che gli strugge la pace dei suoi giorni in una così pericolosa e turbolenta pazzia. È sconvolto, ma non vuol dire la ragione a nessun costo. È un pazzo furbo, svicola sempre. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Se indovinate, Pietrangio, dai un aiutino per favore, perché mi pare che non... Do un aiutone. Dai un aiutone. L'aiutone è questo: nessuno, la voce maschile libri che avete sentito non è Carmelo di... Bene, ok, e quindi in sottrazione è un Carmelo Bene di meno. E dunque? Meno di Carmelo Bene, c'è qualcosa meno di Carmelo Bene. È sottratto, perché la sua presenza è nell'assenza. Vabbè, senti, speriamo che lo indovini io, non lo indovinerei mai. No, okay. Se no lo indovina, no, lo indovino io e vinco io. Va bene, no, ok, vabbè, però lui si appia con i piritolli, ma parla quasi come Piritolli. È iper Piritolli. Dai, ultima bolla. Pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza, mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. Allora, la paura è un problema che non ti riguarda, però stamattina i mercati hanno aperto misti, le borse europee vanno un po' così. Ci sono ancora dati sulla Germania, per dire appunto, continuiamo su questo filone, perché l'export è calato il 5,2% ad agosto, è un dato molto brutto, è il peggiore dal 2009, Giovanni. Per cui secondo me anche tutte le cose che abbiamo detto adesso sulla ripresa, nella nostra puntata di Dentro la Notizia, sono tutte, no, con beneficio di inventario, perché certo, se rallenta la Germania a causa del rallentamento delle economie emergenti, non è che a noi non succede nulla, no, capito? succede che non va bene neanche qua, Quindi non bisogna godere dei guai della Germania, grande raccomandazione. Va bene, intanto abbiamo qualche telefonata, no, non sento dalla regia, facciamolo riascoltare, va, l'ultima speranza. E non potete voi, per via indiretta, trargli di bocca la causa di quello stentato vaneggiare che gli strugge la pace dei suoi giorni in una così pericolosa e turbolenta pazzia. È sconvolto, ma non vuol dire la ragione a nessun costo. Pietrangelo, è un pazzo furbo. Pietrangelo, dillo tu, va, che così la settimana prossima cambiamo. Dedicato a tutti i pazzi furbi che svicolano sempre, è un Amleto di meno di Carmelo Bene. Ma non era lui a parlare. È chiaro? No. Vabbè, la settimana prossima, giuro, un altro canzoniere. Adesso con il professor Roberto Bernabei, come tutti i giorni, commentiamo le più importanti notizie di medicina che sono apparse sulle riviste top di tutto il mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA, 18 agosto 2015. L'associazione della sigaretta elettronica con l'iniziazione al fumo nell'adolescenza. Allora, professore, la sigaretta elettronica fa fumare? Ma la risposta ce la dà JAMA, che ha fatto uno studio molto semplice, perché ha seguito 2514 anni che non avevano mai fumato e che sono stati seguiti per un anno con domande apposite riferite al consumo di tabacco. E si è visto che quelli che avevano cominciato la sigaretta elettronica e non avevano mai fumato erano molto più pronti di quelli che non avevano cominciato la sigaretta elettronica a switchare, a passare al fumo di sigaretta. Quindi se uno su 10 cominciava nell'anno a fumare, uno su 3 di quelli che invece avevano già iniziato con la sigaretta elettronica. Quindi che vuol dire? Vuol dire che, come dire, c'è una specie di predisposizione per cui la sigaretta elettronica è un passaggio intermedio, ma se vedete vostro figlio o vostro fratello che ha la sigaretta elettronica, beh, sappiate che è molto probabile che switchi al fumo. Perché è importante tutto questo? Come sapete, l'aspettativa di vita è aumentata, dovremmo campare tutti 100 anni, il vero problema è, come sempre, come fare questi 100 anni, soprattutto diciamo dopo i 70-75. Il cosiddetto healthy aging, l'invecchiamento in salute, si costruisce fin da ragazzi e si costruisce con gli stili di vita che hanno alcuni capisaldi. Se non fate esercizio fisico, scordatevi di fare una bella vecchiaia. Se fumate, bevete e dormite, come dire, poco e male, altrettanto. Quindi il lavoro di JAMA è importante perché ci cautela su quelli che sono i rischi che impediscono un buon invecchiamento.